Eccomi, noi siamo ancora in quella situazione di non poter celebrare la Santa Messa con il concorso del popolo e dunque io rivolgo a tutti voi, cari amici, un pensiero sulla Quaresima, registrandolo così, avendo davanti ai miei occhi voi. E nel cuore l'amore per Gesù e per voi, ecco, che siete il popolo suo, ecco. Allora, sebbene molta gente, molta, non viva più la Quaresima, anzi, è veramente un po' umiliante vedere come tantissima gente non distingue più. Tuttavia c'è ancora un certo zoccolo duro di persone, e certamente voi siete tra questi, che avvertono come la Quaresima è un tempo che chiamiamo forte, un tempo più impegnativo, un tempo. Se dovessimo raccogliere le parole che rendono questo tempo di Quaresima più forte, queste parole potrebbero essere penitenza, più preghiera, la Via Crucis, i venerdì di Quaresima, il digiuno, la confessione e poi anche quella penitenza fatta anche sul cibo, che non è affatto da sottovalutare, anche se il digiuno non è solo quello del cibo, ma avremo modo magari di parlarne. Sarà utile, se riuscirò, riprendere ognuna di queste parole. Per oggi vorrei condividere con voi un pensiero che mi accompagna praticamente da tutta la vita. È una parola: si deve entrare in Quaresima. Questo verbo entrare in Quaresima è un verbo molto significativo perché esprime un ingresso, esprime un cammino, esprime poi un far parte di un momento speciale. Ecco, bisogna entrare in Quaresima. Io condividerò con voi più che non delle riflessioni per voi, delle riflessioni per me. Perché non capiti che predichi a voi e poi io non viva la Quaresima. Allora io cercherò di dirvi qualcosa sulla liturgia, perché lo sapete che per me è la madre di tutte le preghiere, il messalino. Tra l'altro ho insistito, e diversi mi hanno dato gioia perché mi hanno detto: Don, grazie alla tua insistenza, io sono andato a cercare qualcuno ammirevole, non distinguendo, perché ve l'ho detto, io sono qui sul limite tra rito ambrosiano e rito romano, perché nella stessa diocesi, di Milano ci sono delle zone milanesi, ma che sono di rito romano, ecco, per storicamente così. Allora uno dice: ma ho comperato questo messalino, va bene, no, questo è di rito romano. Oppure qualcuno non sapeva da che parte girarsi, insomma. Ma era commovente vedere quanta gente si è fidata anche del mio suggerimento, è proprio vero, amici, è l'obbedienza alla volontà di Dio che salva il mondo. Beh, io noto nella liturgia ambrosiana, non faccio pubblicità, il fatto è che viene riconosciuta anche dagli studiosi, no? Che la liturgia ambrosiana è ricchissima. In particolare oggi vi voglio commentare il prefazio, perché pensate, mentre il canto all'ingresso, alla comunione, così, sono gli stessi per tutta la settimana. Il prefazio ce n'è uno diverso ogni giorno, pensate, per tutto. Poi mi pare che anche il rito romano ha copiato questo, una volta non era così, però c'è una ricchezza straordinaria. Allora, Io non vi faccio la predica, vi dico quello che ho meditato per me e poi ve lo condivido se per caso vi potesse servire. Allora, il prefazio di oggi, prima lunedì della settimana di Quaresima, dice così: Tu non ci nutri, o Signore, soltanto di cibo terreno, non ci fai vivere solo di pane, ma di ogni tua santa parola. Se ci priviamo per tuo amore di qualche alimento, veniamo saziati in modo più alto e più vero. È vero, io ho scoperto che stare un po' indietro nel cibo, stare un po' indietro nel bere, anche bevande lecite, a parte che mi ricordo su queste cose il mio papà, che ormai senz'altro è in paradiso, quando mio papà entrava in Quaresima, lui smetteva di fumare, fumava un pacchetto di sigarette al giorno. Per tutta la Quaresima non fumava. E pur piacendogli anche in maniera buona, però era un buon bevitore, lui non beveva il vino per tutta la Quaresima. Io non, e non era l'unico, ho visto altre persone di quella razza lì che facevano così. Poi quando finiva la Quaresima ci davano dentro, ma io non sono capace di fare niente, io al confronto sono veramente una schiappa. E per questo che è bello guardare gli esempi, no? E d'altra parte anch'io vedo che se riesco, a stare un po' indietro nel cibo, se riesco a stare un po' indietro nella gola, sono molto goloso, così vedo che veramente, veramente il Signore mi riempie in un'altra maniera. Oltretutto ho scoperto che se in Quaresima, anche in altre veglie, magari sto leggerissimo o salto addirittura la cena, di colpo mi si spalanca un sacco di tempo a disposizione. È vero, eh? Se ci priviamo per tuo amore di qualche alimento, veniamo saziati in modo più alto e più vero. E se cibo e bevanda sono vigore del corpo, rinunce e dominio di sé ritemprano il cuore. Tu hai voluto questa lunga astinenza perché digiunando torniamo a quel paradiso da cui una fame orgogliosa, non dominata, ci escluse. Ecco, cari amici, io concludo, ma dico a me, dico a voi, che il digiuno, la penitenza, non è fare i fakiri, non è per andare indietro di peso, ma servono per lasciare più spazio a un altro cibo, a un'altra parola. E così anche quando ragioneremo della carità, si fa digiuno, se non si spendono certi soldi, non per risparmiare, ma perché quello che si è risparmiato, magari nel caffè che è stato saltato, nella merendina che magari viene lasciata da parte e si mangia un panino invece della merendina e si spende di meno, quei soldi lì risparmiati servono per la carità. Ciao, vi auguro una buona Quaresima.